Hadith numero 10 da Abu Huraira, che Allah si compiaccia di lui, disse: disse l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: in verità Allah l'Altissimo è bontà e non accetta se non bontà, e in verità Allah ha ordinato ai credenti ciò che ha ordinato agli inviati, quando dice l'Altissimo: o apostoli, mangiate cose buone e agite onestamente, e dice: o credenti, mangiate cose buone della nostra provvidenza per voi. Poi, dopo aver detto questo, ricordò l'uomo il quale, perduta la sua strada nel deserto, vaga allungando il suo viaggio. Con i capelli arruffati e impolverati, egli tende le sue due mani al cielo invocando: «Oh Signore, oh Signore!» Come potrà essere esaudito se il suo cibo era illecito, la sua bevanda era illecita, il suo vestito era illecito, si è nutrito di cose illecite? L'ha riferito l'imam Muslim.